Giuro fedeltà alla bandiera che sventola. Zero tricolore, sto parlando del mio personal. Si spliffa di brutto, gangio scitto buono, noi cremiamo sempre in gruppo. Tutto tratto da affarista, white widow, scanco crystal. Mettiti in lista e spera che il pusher rifornisca. Lui in strada mimetizza, lo so, è un'ingiustizia. Gettarlo se lo sbirro si avvicina con malizia. Strizzi dal sudore le tue sette camicie, ma pensare di fumarle meraviglie più di Alice. Hai conservato la conquista, arrivi a casa, sintetizza questa mista nella Rizzle e poi a pizza. Credi di pezzarti ed hai buone speranze, che muoiono quando senti che cioccolato sega gambe. Com'è che la tua crew di fichetti non s'accorta che son due mesi che vi sto vendendo solo torba? I valido, resta chi non c'ha un euro in tasca, ma che riesce sempre a crestarti qualche brasca. L'alito che c'hai è del fumo che ti raschia. Pianto il mio seme aspettando che nasca. Pensavo fosse amore e invece era un calesse. Pensavo fosse maffo e invece nepalese. Spendi pure tutto il cash in un nuovo paio d'Adidas. Io me lo spendo in derivati della canapa. L'erba che mi gusta e questa ne su un'altra. Se a sto giro carta bianca allora ne tiro su un'altra. Zarra filtro mappa, marras spliffa charras. Qui ci sta moretti al contrabbando di mezzetti. In casa gennaio d'estate in sdraio, smollami un paio di canne poi scompaio. Non fare storie, lo vedi sei di coccio. Fumiamo solo noi mentre a te tocca il cartoccio. Oh, io lo ma bombe? Sì, ma a me sembra un po' una cosa strana. Qua parliamo di bombe, ma io bombe non ne vedo. Minchia palo, non ci sono bombe, porco. Né Mr. X né Mr. Y non ce l'hanno. Non c'ha nessuno. Sono Mr. X e Mr. Y. I nomi è meglio non farlo. Ah, va al telefono, meglio non farlo. Oh, bella Juve, ci becchiamo. Bella.